Siamo in missione per conto di Dio. "24 mattino" di Luca Telese. Reach out, touch faith. Buongiorno, proprio per rovinare la giornata a chi ci sta ascoltando, non basta svegliarsi presto, c'è anche cammino adesso. Avranno tutti i difetti che dici tu, i tuoi avversari politici, ma falli notare a noi, ai cittadini, tu pensa ai tuoi, che ne hai abbastanza. Vestite in un determinato modo alle 3 di notte in un quartiere, non era il caso, da sola si espone al rischio di un'aggressione. Anche la persona più intelligente di questo mondo nelle 24 ore la dice una cazzata. Ora non è il caso di Margiolia, che le dice anche più di una. Oggi è in corso la vendemmia con qualche problema, cioè? La vendemmiatrice meccanica non riesce a staccare i grappoli e quindi bisognerà vendemmiare a mano. E lei la sera la chiude la porta chiave? Sì, la chiude. Allora? E la chiude per un principio di cosa? Per un principio di prudenza. Io mangio per dimenticare, beve per dimenticare, io mangio. Io ho sempre quasi votato centrodestra. Ah, e diciamo, ora? Diciamo Berlusconi, va. E mi sono politicato con i miei familiari che votavano il PD. No, però io sono sulla linea Barisoni. Questi manco ti rimborsano tutto il biglietto. Sono solidale a tutti quelli della redazione di Radio 24 che stanno qui e ridono. Che sono lì, che sono lì dalle 4 e vengono sfruttati con orari terribili. Facciamo un avvertimento sindacale: è immorale alzarsi a quest'ora. Magari! Reach out and touch faith. Magari, come dice il gattone, una nuova giornata di lavoro, di impegno, di sudore, una nuova giornata di polemica, mentre sentite come entra questo blues potente, attraversiamo la giungla del contemporaneo. Ancora uno stupro, ancora battaglia nel mondo della politica, ancora aerei bloccati per il caos di Ryanair. È una giornata in cui però tuttavia noi ci mettiamo al lavoro, voi siete nelle vostre macchine, vi state lavando i denti e io qui al mio fianco la leggenda della radio, The Voice, Joe Violante. Abbiamo preso in giro tutto con questa cosa, tutti con questa cosa. Buongiorno, buongiorno ai tuoi ascoltatori. Bisogna grazie che tu per lavori l'invito a questo tuo Giannino ora, mentre lui un po' riposa e ci ascolta con l'orecchio. Sì, sì. Magari Luca. Beh, lavorerò, sì, adesso me lo ascolto e poi vedrai che così possiamo interagire. Perché descrivi quello che percepisci con il tuo orecchio della voce di Giannino, che cos'ha che la... è molto Giannino caratteristica, è una voce, è impossibile trovare una voce, cioè sai che ci sono voci simili nel esatto mondo, ma Giannino è unico, ma anche esteticamente, sarà che c'è una corrispondenza fra l'aspetto estetico e anche la voce. Bene. Ma cosa state dicendo? Bellissimo, perché c'è anche quella cani e gatti, tra poco Oscar arriva. Però noi cominciamo come sempre con il fritto misto della giornata. Questo è sequestro di persona, io ve lo dico. Io vi mangerei tutti per il gusto poi di vomitare. È rischioso, Grillo, andare avanti in Sicilia facendo finta di nulla. Voi siete i principi del pettegolezzo, quindi non mi coinvolgerete più. Beppe Grillo furibondo che parla male dei giornalisti non è una novità, ma usa toni molto duri mentre esplode il caso di Di Maio. Ne parleremo, candidato, forse l'errore è che è contornato da avversari troppo fragili. Se provano a iniziare a pronunciare la parola Ius Soli blocchiamo il Parlamento e se non basta bloccarlo dentro lo blocchiamo fuori. Matteo Salvini alle prese con il pignoramento dei conti. Pensate, ogni euro che entra nelle casse della Lega da questo momento in poi finisce sequestrato. È una condizione molto difficile e nel frattempo lui ribadisce: sarò candidato premier. questa gente che sta lì spersa nel bosco e si vede arrivare questo carrozzone di persone che un giorno sono vicini, un giorno sono lontani, e poi discuto e Pisapia, ci vogliamo bene ma non ci vogliamo abbastanza bene, e poi il giorno tubano, il giorno dopo litigano e si riavvicinano e si incontrano e sembra Romino Albano sui romanzi di settimana popolari, no? Poi dopodiché gli dici: ma lei che cosa, ma lei che cosa gli dice? E Bersani risponde: gli dico che con la cosa rossa non si vince, però l'importante è non che non si sputi sulla cosa rossa, ma non vinciamo, portiamo acqua con le orecchie, e essendo che nessuno di loro è Dumbo, l'acqua con le orecchie è piuttosto limitata, ci vorrebbe almeno l'autobotte. Uno strepitoso Mario Giordano che ha fatto ridere Bersani ieri, croccanti le battute dei talk dove imperversano, sono tornati a imperversare i politici. La gente ha capito che questa è un'operazione fatta da azzeccagarbugli che vogliono in qualche modo fermare il movimento. Io dico a tutti: volete battere il movimento, battetelo in una competizione elettorale secondo le leggi democratiche di questo paese, non rischiamo di correre invece in maniera antidemocratica buttandoci giù dai tribunali. Questo era Cancelleri, allora è diventata, come dire, definitiva quella sentenza che sanciva l'irregolarità della sua candidatura, almeno secondo i magistrati, ma attenzione, le voci dell'ultima ora dicono che per i 5 Stelle rifare le regionarie sarebbe un disastro e quindi si continua così. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. È tempo di morire. Ah, quanto erano belli questi accordi anni 80 di Vangelis, il mondo sognava con l'utopia negativa di Blade Runner, eravamo bambini, io almeno, anche Gio Violanti, no, ma tu avevi già combattuto le guerre del risorgimento, e arrivava lui, Harrison Ford, che ritorna ora con un film cupo, dark, crepuscolare, perché ancora, pensateci, il futuro che ci immaginiamo è a tinte nere. Eccoci. Allora, Joe, partiamo proprio da questo ricordo. Te lo ricordi? Ti segnò Blade Runner? Allora, Blade Runner, beh sì, io ero un po' più grande di te. Blade Runner è un punto di riferimento, credo, per tutta la filmografia di fantascientifica, cioè una vera novità in campo fantascientifico, perché sai, eravamo abituati a vedere quei goffi astronauti su quei pianeti improbabili, sì, sì. Quelle navicelle, latine, sai, quelle navicelle che si capiva fatte un con po' con la canna da pesca. E invece qua c'era il tocco di Ridley Scott, che adesso sta uscendo tra l'altro con il nuovo film. E quello, raccontiamo quello perché è stato presentato oggi, ci sono recensioni che vi darò, perché secondo me si tratta veramente di un film che può segnare un'epoca, eh? Oggi pare che abbia usato le tonalità arancione, non è stato ricostruito nulla con i chroma key, non è stato ricostruito niente, hanno fatto tutto in studio per agevolare una recitazione interiore, pensa. Vedi. Ma ne sai di tutto, cioè sai anche di cinema, Luca, tu com'è? Sì, come diceva sempre Ron Kay, lei è un tuttologo anche. No, invece ti volevo chiedere, perché è un po' una voce che dovrebbe intrigarti, anche quella di Mario Giordano, un'ottava alta. A questa voce alta, questa voce un po' afona, e la R, poi interrompe molto le parole. Interrompe le parole. Se mi dai tempo di prendere quell'ottava altissima, sì, che c'è lui, che è quasi impossibile. E anche vabbè, adesso è anche calato un po', è calato anche di peso un pochettino, ma insomma l'importante è che mi fai andare su, perché lui va molto su, devo un attimo adattare le corde vocali e tira fuori la sua R, e questa interruzione delle parole che è fantastica. Bellissimo. Perché Mario Giordano è uno che veramente macina parole su parole, ogni tanto è un rapper, ecco, il rapper dell'opinionismo politico. Telese, bravissimo, grazie, un caso di complimento, però mi piacciono i brani di musica, accompagno i commenti. Qua è uno studio, un brainstorming ogni mattina, per esempio questo Run to the Jungle che abbiamo sentito all'inizio, faccelo risentire, questo è proprio, senti come si entra con questo accordo potente, eh? Posso leggere questo sms? Sì. Che vedo qua, complimenti Luca Telese, sei il migliore, firmato Luca Telese, non va... scusa Luca, non vale, perché se facciamo così è finita. No, era per la musica, non volevo censurare. Ma un altro, se c'è una ma poi ce n'è tanti anche che ti mandano a quel paese, noi li leggiamo pure quelli, eh. Allora 349-238-6666 e ti chiedo che impressione hai di questa vicenda di Ryanair. La vicenda di Ryanair è una cosa curiosissima, perché adesso dicono che i piloti praticamente devono fare le ferie, cioè il problema sarebbero le ferie dei piloti. Ma scusa, ma quando è organizzano un grande paradigma sulla precarizzazione, sai quelle parole potenti? Beh, la precarizzazione, però è vero. Hanno tirato così tanto la corda che quando salta il tappo, adesso gli propongono lo straordinario. O'Leary, il patrono di Ryanair, sta proponendo, perché oggi sono stati cancellati il 38% dei voli italiani. Ryanair è il primo vettore italiano e sta per farli tornare questi piloti, li propone lo straordinario e loro dicono no, vogliamo il contratto, vogliamo le ferie, vogliamo essere garantiti. Allora, la verità è, almeno quello che ho sentito, cioè pare che loro, i piloti, stiano in realtà, non debbano andare in ferma, stiano cercando compagnie aeree più affidabili che gli diano appunto un contratto più sicuro, ma è questo. Però sì, intanto il titolo ha perso 2%. Perché è ripartito il mercato. Ci sono dei piccoli segnali positivi. Il Sole 24 Ore oggi ci racconta che è ripartita la moda. Sta ripartendo il mercato dei voli e quindi la gente dice: oh, abbiamo tirato la cinghia, adesso pagate. Ecco, come si dice nelle tue terre, cacciate gli sordi, l'equivalente fuori da ne, no? Che cosa? Beh, fuori da ne, no. Dammi soldi. Ah, dammi soldi. Cioè, molto più diretto, diciamo. Ah, quasi una rapina. Cioè, anche cacciate gli sordi non è una cosa molto soft. Certo. Allora, e l'altro tema invece su cui ti volevo chiedere qualcosa è questa vicenda delle primarie a 5 Stelle. Domina su tutti i giornali, stanno parlando i candidati, che ti pare? A me sembra che sia così una piccola flessione, uno scivolone un po' dei 5 Stelle. Cioè era meglio, meglio avere una competizione con Di Maio, Fico e Guerre Stellari? Ma dovevano esserci i big, cioè dovevano esserci, insomma, le personalità. Se no non fatele, no? Perché altrimenti, sai, cade un po' quello che è il discorso dei 5 Stelle, che si sono sempre presentati con una così, noi siamo quelli che fanno le cose in un certo modo. Invece quest'idea di presentare Di Maio con i 7 nani è una storia un po'... è una favola un po' così, cioè non puoi presentarmi 7 candidati che non li conosce nessuno. Ovvio. Allora, i già svegli possono manifestarsi allo 02 46 52 4492. Noi stiamo correndo nella giungla e torniamo subito dopo le strade in diretta con il popolo dei già svegli. Già svegli. Buongiorno a tutti, io mi sveglio presto perché sono un addetto mensa, quello che dà da mangiare ai vostri figli nelle mense scolastiche. Mi sveglio presto, alle 7 devo stare al lavoro, lavoro dal 1991, andrò in pensione probabilmente chissà quando. Intanto buongiorno, ma non so neanche dove sono. Io non mi alzavo da quest'ora neanche l'ultima volta quando ho fatto la visita per il militare. Non stavo neanche 17 anni, cioè avevo, capisci? Ecco, buongiorno. Io le spiego perché sono già incassata, poi non le telefono più. Io appartengo alla categoria che ormai mi do delle regole, tipo il personal trainer in palestra, per cui mi sveglio alla stessa ora per andare in palestra. Sono Pino da Prato, sono già sveglio perché mi sono svegliato con questo pensiero. Ho pensato ai finanzieri corrotti, ho pensato ai poliziotti della stradale, poliziotti di Ischia, di Napoli, eccetera, eccetera. Allora 02 46 52 4492, oggi era quasi poetico l'addetto mensa che si sveglia per dare da mangiare ai nostri figli, bisogna pensarci, ci saranno anche tanti tassisti, voglio un tassista. 02 46 52 4492, perché di questi tempi di precarietà i tassisti svolgono un servizio pubblico, caro Gio, tartassati, insultati, però Ma è a parte chi che arriva a Roma, se non ci fossero i taxi, tu pensa? È un servizio quasi, è un servizio fondamentale, ma indispensabile. Ma ovunque è bello viaggiare di dietro, viaggiare accompagnate, molto bello. Va bene, stavamo raccontando di come sono riaccesi i carburatori dei talk show e ieri Renzi a carta bianca. Il fatto è che la Lega ha rubato. Quelli che urlavano Roma ladrona, la Lega non perdona, sono a Lega ladrona e Roma perdona anche un po' troppo. La Lega ha rubato. Che sia la Lega di Bossi, nella quale peraltro Salvini aveva un ruolo, o che siano altri, la Lega ha rubato. Salvini dice noi dobbiamo aiutare gli italiani. Iniziate con rimborsarli. Iniziate a rimborsarli. Bisogna dire che Salvini, non c'è un audio, ma ha risposto sui social network, su Twitter, con grande durezza, e ha detto lo denuncio, e soprattutto perché ci tiene a precisare che lui di quelle malversazioni per cui sono stati condannati Bossi e il tesoriere Belsito non sapeva niente, non aveva niente a che fare. Fu il movimento delle scope della Lega e il rinnovamento, però esiste questo problema grosso di agibilità democratica. Sai, io ho sempre pensato, venendo da una storia diversa, da una storia di sinistra, che bisognerebbe garantire sempre l'agibilità democratica, e quindi mi inquieta questa vicenda della Lega. Ne parlerò dopo anche con Oscar, perché uno non è che può dire ma siccome sono i miei avversari chi se ne frega, cioè il fatto che non abbiano neanche i soldi per pagare gli stipendi è una follia. Anche chi odia la Lega dovrebbe dire li voglio battere, ma sul campo, e non perché l'arbitro li squalifica. Allora io direi una cosa, te lo posso dire? Così. Ah sì, cioè, bene. Siccome veniamo tutti e due da una storia politica simile, no Luca? Certo, e Michele, allora, certo. Insomma, io penso che questa cosa che la Lega non ha neanche i soldi per pagare il gazebo mi fa un po' ridere, no? Michele, ci facciamo una puntata del Raggio Verde? Potremmo fare una docu-fiction sui soldi di Belsito. Bello, bello. Una docu-fiction. I diamanti in Africa. I diamanti in Africa, si paga con i diamanti, diamanti. Avanti sporchi, è una docu-fiction. No, questa cosa però è vera, è un po' inquietante questa cosa dei soldi, Luca. Sì, bloccati, perché... cioè. Poi ho letto un'intervista, poi ne voglio parlare dopo con Oscar. Il procuratore della Repubblica dice no, ma se loro si comportano bene possiamo vedere di sbloccare qualcosa degli stipendi, se ci danno un immobile, ma cioè è una democrazia contrattata e questo non va mai bene. Invece ieri l'anticipo di Serie A. C'è stata una partita bella con il tuo Bologna. Tu sei. Ma io sono di Parma come il mio Bologna. Vabbè, siamo anche indietro. Ma ci avrai una solidarietà con. Ma con... No. Anzi, io poi sono un. Perché parmigiani e bolognesi proprio cani sai, e gatti. No, ma voi siete un appendice della Francia, diciamo la verità. Noi siamo una cosa a parte, da parlo di Parma. Però fra Bologna e Parma c'è in mezzo Reggio Emilia e Modena, quindi sai, siamo distanti, non sentiamo questa competizione. Cioè, però tu non ci senti qua, cioè come noi quando gioca la nazionale ci sentiamo italiani, invece tu non ti senti bolognese? Ma io mi sento anche, no, cioè anche bolognese, quando vado a Bologna sì, insomma, ma non ho questo attaccamento. Ma qual è la più grande differenza fra un bolognese e un parmigiano? Antropologica. I bolognesi non li conosco particolarmente bene, ho vissuto a Parma, quindi cioè, ti posso parlare di... Ma insomma, differenze ce ne sono anche nella parlata, nella lingua. Cioè, il dialetto bolognese è proprio è impossibile. È impossibile da decifrare quando è stretto. È molto. Davvero? È molto, molto. Molto quello del parmigiano non è che scherza, con quello... tutti quei francesismi. Allora, però, sentiamo cosa è successo ieri, perché tutti pensavano che l'Inter avrebbe infilato la sequenza continuata, invece l'impresa di un giovane che si lancia nella corsa, riesce a prendere una palla e infila un tiro pazzesco, l'incrocio dei pali. E al 32esimo Petkovic serve Verdi sulla tre quarti, Vecino non lo tiene, parte Verdi sinistro che batte Andanovic alla sua destra ed è il primo gol in questo campionato per Simone Verdi, 11esimo in Serie A, prova ancora Verdi nel finale ma non succede nulla, 1-1, l'Inter si ferma dopo 4 successi, applausi al Bologna soprattutto per il primo tempo. È Eccoci, correndo nella giungla di Nolongo, vado a Domodossola, sono già sveglio e in viaggio da un'ora. I sette nani sconosciuti dei 5 Stelle in questa settimana diventeranno famosissimi. Beh, li chiameremo anche noi, ve li faremo un po' scoprire. La Lega ha rubato, vero, ma tu Renzi e i tuoi predecessori ci avete fatto perdere miliardi come paese Italia. Non si firma? Mettete anche i nomi per cortesia. Ma va, va, firmato. No, Renzi. No. Da lontano vedo male. Valerio da Udine, perché non parlate mai dei sondaggi siciliani dove il candidato del PD è dato all'8%? Valerio! Ne abbiamo parlato ieri, l'ho letto ieri. Insomma, come facciamo a parlare delle nostre cose? Insomma, no, ma di nascondere, no? Tu, Luca, insomma, viene dato all'8% il candidato del PD, il rettore Micari, al 25% il candidato dei 5 Stelle e al 42% il candidato del centrodestra. E a volte torna. Ma lo conoscevi mica che ti faccio questa domanda? No, ma never covered, come si dice a Roma, mai sentito. Allora 6:54 27 secondi, perché ci dicono anche ricordate il tempo, siamo anche un segnale orario, caro Gio. Sì. Dillo un po', 6:50 come dice un grande esperto della radio. Ma che intanto ci identifichiamo, questa è Radio 24 con Luca Telese, sono ospite modestamente, qui sono Gio Violanti, sono le 6:54 minuti, 47 secondi e adesso c'è una pubblicità. GR, strada in diretta, a fra poco.